Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Umberto Bertelè. Buonasera. Umberto Bertelè, ordinario di strategia e sistemi di pianificazione al Politecnico di Milano, è stato tra i fondatori del corso di studio di ingegneria gestionale, presidente onorario del MIP. Cos'è il MIP, professor Bertelè? Il MIP è la Business School del Politecnico, ormai è entrata nelle classifiche delle grandi business school europee. Una business school, e allora da questa esperienza è nato il libro Strategia, edito da Egea, un libro molto fitto che raccoglie appunto le esperienze di insegnamento, le esperienze anche di conoscenza sul campo della realtà, direi, imprenditoriale, industriale italiana, e che cerca di affrontare anche e soprattutto, direi, i cambiamenti e i problemi che questa realtà deve affrontare, non solo per la crisi economica che ormai da troppo tempo ci coinvolge, ma anche per i grandi cambiamenti, dalle globalizzazioni alle liberalizzazioni, allo sviluppo delle tecnologie, ai cambiamenti dei rapporti tra gli stati, all'ingresso di nuovi prodotti e così via. Ecco, tutti questi temi ovviamente coinvolgono la strategia delle imprese, e alla strategia appunto è dedicato questo libro. Come nasce questo libro, allora, professor Bertelè? Beh, nasce da un lato dalla mia antica passione per questa materia. Ho l'orgoglio di essere stato il primo con Pagliarani a Padova a introdurre nelle scuole di ingegneria un corso di strategia ormai 20 anni fa. Nasce anche da una serie, come giustamente le diceva prima, da una serie di esperienze sul campo, consigli di amministrazione delle società nei settori più diversi, eccetera, che mi hanno reso, discreto conoscitore anche di quello che avviene all'interno delle imprese, non fuori. L'occasione qual è stata? L'occasione è stata una sollecitazione dell'editore, che è Egea, che ha fatto questa nuova collana che si chiama Pixel, abbastanza particolare, cioè è un formato tascabile quando nell'edizione cartacea, il numero di pagine massimo è stabilito, c'è un glossario, ci sono le letture in rete e poi c'è l'edizione in formato EPUB tipo Kindle, le app per Apple e Android, quindi ci sono modi diversi di lettura. Ecco, c'è anche dei contenuti digitali complementari, quindi chi compra questo libro poi ha la possibilità di accedere appunto attraverso i vari strumenti informatici anche a qualcosa di più. Sì, cioè chi compra il cartaceo ha la possibilità di accedere al glossario e a tutta una serie di letture di accompagnamento che sono fornite per arricchire l'argomento. Chi lo compra già in versione elettronica o Kindle o app, addirittura poi ha la modalità di connessione diretta sui vari temi. Ecco, questo è in fondo un esempio di nuova strategia editoriale, quindi anche qui parliamo di strategia editoriale proprio. Ecco, il libro si apre con due esempi per iniziare, e forse se potremmo dire anche due esempi da imitare. Uno è la Apple e Steve Jobs, ed è un esempio forse fin troppo nato. L'altro è un esempio, per fortuna, italiano, che è quello di Cuxottica. Ecco, sono esempi che sono possibili che è possibile imitarli? Ma direi questo: su Apple ovviamente sembra un esempio banale, ma è un esempio abbastanza interessante da diversi punti di vista, oltre a quello più naturale di un'impresa molto innovativa. È stato un grossissimo turnaround. Quando c'è stato Steve Jobs che ha ripreso in mano la società, stava quasi fallendo ed è passato dal quasi fallimento a diventare la società più capitalizzata del mondo. Secondo me, un caso molto interessante di come le imprese vivano mettendo assieme delle modalità nobili di fare strategia con quelli che io chiamo comportamenti ai confini del lecito. È noto, credo abbastanza, che sui 43 miliardi di utile dell'anno scorso, su 7 Apple ha pagato le tasse normali, sugli altri 36 ha pagato il 2%. Quindi vuol dire che il risparmio fiscale, non è solo Apple a farlo, rappresenta un pezzo forte del valore, così come un pezzo forte del valore è il produrre in Cina in stabilimenti che sono un po' al limite delle situazioni. Quindi siamo all'interno della legalità, ma siamo, come io dico, ai confini del lecito. Ecco, uno dei leitmotiv è quello di vedere le imprese con vizi e con virtù. e mettere assieme questi casi. Ecco, invece sul fronte di Luxottica, che è in un ambito diverso, indubbiamente, diciamo forse più tradizionale rispetto ad Apple, però anche qui c'è una strategia da imitare. Sì, Luxottica è un esempio di notevole interesse, perché il Del Vecchio, che è stato l'imprenditore verso Guerra che la manda avanti, eccetera, hanno saputo trasformare quella che all'inizio era una società di produzione terzista della Cadore nella più grande impresa da questo punto di vista del mondo, giocando in maniera forte due carte: la carta della conquista delle reti distributive, soprattutto negli Stati Uniti, ma adesso anche in Cina, in Sud America, eccetera, giocando la carta dell'acquisto dei brand, ce ne sono di famosi diretti, e poi dell'uso di brand, come possono essere quelli di Armani o di altri stilisti, per dare una collezione completa di occhiali. È un settore che sembrerebbe tradizionale, ma è interessante vedere che si prevede per il 2020, con l'arrivo dei nuovi consumatori sul mercato, che si aggiungano 500 milioni di nuovi consumatori di occhiali da vista. Quindi un settore che sembrerebbe statico, in realtà ha delle potenzialità di espansione notevole, per non parlare poi di aspetti come i Google Glass, eccetera, quindi certo, aspetti in cui gli occhiali possono assumere dei connotati di natura più tecnologica. Ma questo può essere vero anche per tanti altri settori in cui l'Italia può avere una posizione competitiva molto favorevole di fronte a un mercato che sta crescendo. In questa prospettiva, qual è il suo giudizio sulle aziende italiane, anche se è difficile generalizzare, però di fronte alle nuove opportunità del mercato come risposta anche alla crisi economica, le aziende sono attrezzate abbastanza sul fronte della strategia? Io direi che in Italia in questo momento quello che colpisce è una specie di bipartizione fra le imprese che si guardano in giro per il mondo, e varie di queste crescono perché cresce il mercato mondiale, e le imprese che viceversa sono un po' ripiegate sul mercato interno, su se stesse, spesso sono anche quelle meno dinamiche nel cavalcare le nuove tecnologie e che vivono una situazione, sappiamo, non brillante. Quindi il mio consiglio sempre è quello che ci si deve convincere che il mercato da guardare ormai è quello globale, e che i mercati nazionali sono un caso specifico in talune situazioni. Secondo, che tutta una serie di nuove tecnologie sta cambiando profondamente il modo di essere delle imprese, il modo di competere. E quello che sarebbe più tragico per noi è che la concorrenza che ci arriva da paesi come la Cina, l'India, eccetera, arriva già con imprese che sono organizzate nel modo nuovo. Quindi non dobbiamo farci cogliere con vecchie organizzazioni contro quelli che sono i nuovi entranti sul mercato. E questo comporta anche un cambiamento sul fronte, diciamo, dell'educazione, di fronte dei giovani che devono entrare in un mondo del lavoro, soprattutto a livelli manageriali, a livelli di guida, a livelli come appunto deve fare una struttura come il Politecnico, la sua business school, deve portare questi giovani ad essere capaci di essere concorrenziali. Però c'è anche il rischio che questi giovani poi vadano all'estero a portare la loro concorrenzialità. Come vede questo problema dei talenti italiani, dei giovani talenti italiani che vanno all'estero? Io credo che sia un fenomeno abbastanza naturale. Il problema grosso è che non abbiamo un flusso equivalente in entrata di talenti esteri. Quindi è la nostra economia che in questo momento è meno attrattiva. Il rischio è per l'Italia di avere una situazione simile a quella che si è avuto nel Mezzogiorno, che è stata una generatrice di grande intelligenza anche per il Nord, e che però ha perso una parte della sua capacità imprenditoriale negli anni passati. Ecco, io credo che noi dobbiamo preparare i nostri studenti, è giusto anche andare in giro per il mondo. Quando abbiamo festeggiato i 30 anni del gestionale l'anno scorso, abbiamo portato una serie di persone che facevano i mestieri più differenti nelle società più diverse in giro per il mondo, e questo ci fa piacere. È sicuramente una perdita se c'è solo un flusso netto in uscita e non abbiamo anche delle entrate che vadano a compensare questo. E allora concludiamo parlando ancora del libro, il libro appunto Strategia, a chi è indirizzato, soprattutto a chi può essere utile questo libro? Il format scelto è un format che dovrebbe permettere, mi auguro poi di esserci riuscito, una lettura abbastanza agile. Il numero di esempi riportato è molto elevato, li ha contati il mio editore, ci sono più di 200 imprese che sono citate nel testo a proposito delle diverse operazioni fatte, quindi grandi scelte strategiche, singole operazioni come possono essere le fusioni e acquisizioni, come possono essere le start-up, ma anche come possono essere le imprese che finiscono il loro ciclo vitale. Ecco, quindi guardando al 2014, consigli utili per le imprese e per gli imprenditori, consigli utili anche per chi vive nel mondo, nel sistema economico, una nota di ottimismo ce lo può dare per il 2014? Diciamo, anche guardando dai nostri osservatori che sono sia nel campo della ICT che nel campo delle nuove energie, che delle nuove forme di marketing, ci sono una serie non piccola di esempi di imprenditori che si muovono molto bene e con grande intelligenza. Ecco, l'importante è che ci si diffonda sempre più la sensibilità su cosa è realmente importante e cosa no. E questo deve toccare non solo i giovani, ma deve toccare anche le persone che hanno una certa età. Quindi il nostro sforzo è anche quello di sensibilizzare al massimo gli imprenditori, dicendo che facendo le cose giuste e nuove si guadagna. Grazie a Umberto Bertelè, grazie di averci illustrato questo libro, un libro strategia, lo ricordo, edito da Egea, sono 168 pagine e 9,90 euro, un libro, se mi posso permettere, utile anche per conoscere dal di fuori, da chi non ha la possibilità di entrare nei meccanismi del potere, ma di conoscere dal di fuori come funziona l'impresa, come funziona il sistema economico, come funzionano i meccanismi della crescita, dello sviluppo, della competizione, non solo a livello interno ma anche e soprattutto a livello globale. Mi auguro che sia così e ringrazio molto per l'opportunità. Grazie a Umberto Bertelè, grazie a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.